Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dai, tuffati. Vieni giù. Vieni in acqua, dai. Guarda che ti porta l'acqua alta. Ti porta l'acqua alta. Guarda. No. Porti l'acqua alta. No. Vieni giù. Guarda, c'è ancora il tempo a cambiare. Voglio fare un altro sport. L'hai capito? Ti porti l'acqua alta. Ma dai, ho sbagliato. Vieni giù. No. Ci ho ripensato. Mamma, ma c'è ancora il tempo a cambiare. Io ci ho ripensato. No, no, guarda. No. Ti porta l'acqua alta. All'acqua alta. Niente, è più forte di me. Quando sento nominare la pallanuoto, io non riesco a non risentire dei pezzi di Palombella Rossa. Ce n'è un altro a cui sono particolarmente affezionato, ed è quando Nanni Moretti corre sul bordo della piscina dicendo: non torneranno più i pomeriggi di maggio, le merende al cioccolato. E poi va dal portiere e dice: io guardavo a sinistra. Ma lo so, Michele, se tu guardi a sinistra so che tiri a destra. No, io volevo tirare veramente a sinistra. E c'è tutto il rimpianto di qualcuno che ha sbagliato e che è stato frainteso, e quel fraintendimento ha rovinato tutto. E la storia di oggi, la storia che vi racconto di nuovo, che è nata in onda credo a febbraio, verso la fine dell'inverno scorso, che è la storia di Niccolò Casagrande, parla di entrambe le cose. Parla di pallanuoto e parla di grandi rimpianti. In questo caso il rimpianto non ha a che fare con lui, cioè non ha a che fare con un errore suo, ma un errore di qualcun altro, che è ancora peggio, perché non c'entri tu, è di colpa di qualcun altro se tu non hai potuto ottenere qualcosa o quello che volevi. Quello che voleva, o quel qualcosa per quanto riguarda Niccolò, era una convocazione importante, molto importante, e lui semplicemente non c'era, e qualcuno, insomma, c'è un disguido. E sta di fatto che lui ci manda un racconto che si intitola Non mi resta che nuotare, come a dire: alla fin fine, quando fai una cosa e qualcosa va storto, è inutile starli a recriminare, butta giù la testa e vai dritto, e continua a farlo, che è una filosofia che non è male. Vi ricordo che questo è Il meglio di Voi siete qui, e Voi siete qui è un programma in cui ogni giorno racconto la storia di un ascoltatore. Questo è un caso particolare, per tutto il mese di luglio ne racconto due, ma l'anno prossimo, o meglio la stagione prossima, a partire da settembre, continuiamo a raccontare le storie di chi ha voglia di raccontarcele. Mandate un racconto di una pagina in cui raccontate un episodio che racconti qualcosa di voi, un episodio della vostra vita, un episodio realmente accaduto. Voi siete qui, @radio24.it. È la cosa che hanno già fatto in tanti durante la stagione passata, ed è una cosa che ha fatto anche Niccolò. Era un lunedì di marzo. La sera prima ero tornato dalla settimana bianca alla Prica, organizzata dalla scuola. Una bella settimana. Al pomeriggio, culate sulla poca neve rimasta facendo lezioni di snowboard. Alla sera, casino totale nelle stanze delle ragazze. Ero stanco dopo una settimana così intensa, ma avevo saltato già due partite di campionato a pallanuoto. Così, quel lunedì pomeriggio, sono andato ad allenarmi in piscina. Prima di entrare negli spogliatoi, mi fermo davanti alla bacheca per scrutare la classifica del mio campionato. Mentre sto per aprire la porta, mi accorgo di un foglio con una lista di nomi e appeso in mezzo agli altri. È la convocazione per la selezione della rappresentativa nazionale giovanile, categoria allievi. E ci sono due nomi evidenziati: Niccolò Casagrande, Rari Nantes Lavagna, e Marco Castagnasso. Rileggo bene. Quel Niccolò Casagrande sono io. Io sono il portiere del Lavagna. Mio padre mi ha sempre educato al nuoto, però ho smesso di fare nuoto agonistico perché proprio mi ero annoiato. Tornando a fare uno sport acquatico, ho scoperto la pallanuoto a 11 anni. Da lì è proprio stata passione, finché non ho smesso a 20 anni. Diciamo che è tutto merito di mio padre. Dopo aver letto il mio nome, comincio a sorridere e a sentirmi soddisfatto. Finalmente qualcuno si è accorto del mio valore. Era ora che mi convocassero. Quella era la mia occasione. Avrei fatto vedere a tutti di che pasta ero fatto. Rileggo anche il nome del mio compagno, Marco Castagnasso, e sono molto contento anche per lui. Insieme abbiamo sempre giocato bene, siamo degli ossi duri per gli avversari. Alle selezioni faremo un figurone, ne sono certo. La convocazione è per il giorno giovedì 15 marzo alle 15, presso la piscina di Camogli. Benissimo, cerco di mettere a fuoco la data. Devo essere assolutamente in forma per quel giorno. E non vedo l'ora di dirlo a Marco, al mister, ai miei compagni. Solo che c'è qualcosa che non torna. È la data. il 15 di marzo. Ma scusate, oggi è lunedì 19. Il giorno della convocazione è già passato. È impossibile, avrò sbagliato a leggere. Mi riavvicino al foglio. 15 marzo, ore 15, scritto in grassetto e sottolineato. Ci deve essere un errore. Vado alla segretaria e le chiedo informazioni. No, no, mi dice. La data è giusta. Le selezioni ci sono state giovedì 15 marzo. Guarda, ti faccio vedere il fax della federazione. E io lo so che la federazione non sbaglia mai. Ero io che avevo saltato le selezioni. Ma come, scusi, perché nessuno mi ha avvisato, le chiedo. Beh, perché ero in montagna con la scuola. Sì, ma cosa c'entra? Mi chiamavate, chiamavate mio padre. Sarebbe venuto a prendermi anche a piedi. Risposta. Scusa, non ci abbiamo pensato. Io ero consapevole delle mie capacità, ma era il fatto che qualcun altro potesse vederle e dire ok, forse è il momento per vedere se puoi fare un salto di qualità ulteriore. E poi soprattutto è la risposta a tutti i sacrifici che si fanno. Poi a quell'età lì, dedicarsi soprattutto a uno sport dove sono 3 ore di allenamento ogni giorno e vedersi poi convocati per una selezione nazionale era, cioè, il massimo. Io non ho parole, fisso la segretaria muto. Sinceramente l'avrei fatto mangiare quel fax, ma riesco a mantenere la calma. Sconsolato, entro negli spogliatoi. Ero arrabbiato, furioso e demoralizzato. Rimango seduto sulla panchina per una decina di minuti, in silenzio, quasi immobilizzato dalla rabbia. Poi dalla porta entra Marco. Gli chiedo se lui le selezioni le ha fatte. No, neppure lui. La settimana prima era a casa per l'influenza e per quel motivo la segretaria non l'ha contattato. Inutile dire che ci sarebbe andato con una gamba sola. Ecco, così eravamo in due, seduti in silenzio sulla panchina. Ci guardammo in faccia e ci cambiammo per entrare in vasca ad allenarci. Dopo aver spiegato la situazione al mister e ai compagni, cominciamo l'allenamento. 3 chilometri di scatti da fare, 1 ora di esercizi con la palla medica e 1 ora di tiri e tecnica. Per tutto l'allenamento non ho detto una parola. Nuotare più forte, stare più tempo alzato sull'acqua, parare di più. Quello era l'unico obiettivo di quel giorno. Io mi meritavo con le selezioni e per sfogare quella rabbia mi restava solamente una cosa, nuotare più forte. Inutile dire che in seguito non mi convocarono mai più, e neppure Marco. La storia di Marco, a pensarci bene, mi ha fatto un po' paura. Perché quello che viene fuori da questo racconto è che noi con le nostre azioni ci impegniamo per far andare la nostra vita in una certa direzione, no? Poi però succede, o può succedere, che degli estranei, delle persone che nemmeno conosciamo e con cui non condividiamo niente di niente, ecco, quelle persone riescono, magari senza volerlo, a influenzare il corso dei nostri eventi. Ecco, è quella mancanza di controllo che mi spaventa. È un po' come la storia del butterfly effect, avete presente, no? Un battito d'ali di farfalla scatena un tornado dall'altra parte del mondo. Quella è una storia molto interessante e ho fatto un po' di ricerche non approfonditissime, ovviamente, come al solito, però ho scoperto una cosa utile. Questa storia del caos, quella dell'effetto farfalla, deriva da un bellissimo racconto di fantascienza di Ray Bradbury, quello di Fahrenheit 451. Questo racconto, il racconto in cui parla della farfalla, si intitola Rumore di tuono ed è ambientato nel futuro. Racconta di un uomo che, grazie a una macchina del tempo, finisce per caso sul pianeta Terra di milioni di anni fa. Fa pochi passi e pesta una farfalla. È una cosa da nulla. Lui al momento non ci fa neanche caso, ma questo piccolissimo evento, per una serie di cause, provoca uno sconquasso enorme nello spazio-tempo e tutto cambia, dal presidente degli Stati Uniti alla lingua parlata, alle persone. Tutto. E fa abbastanza impressione. E qualche anno fa ho letto su un vecchio giornale una storia allucinante. Sono passati un po' di anni e non me la ricordo perfettamente. Anzi, a ripensarci bene non ricordo nemmeno se era una storia vera oppure no. Tant'è, andava più o meno così. C'è questo tizio, un signore tedesco che è devastato dai debiti. Non sapendo più assolutamente che fare, decide di cambiare radicalmente vita, di scappare quasi. E la sua scelta è entrare nella legione straniera. Quindi fa una richiesta scritta e attende una risposta. La lettera con la sua convocazione sta per arrivare. È nel cestino della bicicletta di un postino, che però, proprio quel giorno, quello della consegna, viene investito da un camion. Risultato: centinaia di lettere andate perse e una gamba rotta in più. Un mese passa in un letto d'ospedale. Il caso vuole però che qualche giorno dopo quell'incidente, l'uomo tedesco, quello distrutto dai debiti, vince alla lotteria una cifra spaventosa di soldi. A quel punto non ha più bisogno di scappare e arruolarsi in legione straniera. Solo che lui non sapeva che la sua lettera era andata perduta. E quindi, preoccupatissimo, attende con ansia l'arrivo del postino. Solo che le settimane diventano mesi, i mesi diventano anni, e l'ansia, via via, se ne va. Col tempo questo tizio si dimentica anche dell'accaduto, e quindi per anni conduce una vita normale. Poi un giorno, esattamente 5 anni dopo, quella lettera arriva. Era la sua convocazione per la legione straniera, solo che ormai era scaduta, mandata in prescrizione o come si dice in questi casi. A quel punto però l'uomo cerca di capire come mai quella lettera ci avesse messo così tanto tempo ad arrivare. Perché certo, dopo la vincita alla lotteria aveva cambiato casa, erano successe milioni di cose, ma 5 anni per una lettera in Germania sono veramente tanti. Dopo una serie di ricerche riesce a risalire alla storia del postino, quello investito dal camion. Capisce che è merito di quell'incidente se lui non è stato costretto a partire per la legione straniera. Capisce che è stata una persona che lui neanche aveva mai visto a decidere della sua vita, in meglio. E per riconoscenza gli compra una casa nuova. Sì, lo so, è una storia assurda e adesso che l'ho raccontata mi rendo conto che molto probabilmente non è vera. Però a me piace troppo crederci. Ecco un esempio, Marco da Firenze. Londra 2001. Il mio coinquilino prese in prestito le pile della mia sveglia, che è una roba che ma proprio non si fa. Sveglia che doveva servirmi per non perdere l'aereo e per tornare a Firenze. Volo preso il giorno dopo, ma proprio quel giorno nell'agenzia dove andai per fare il nuovo biglietto conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie, Marco. La differenza è che probabilmente il coinquilino di allora l'ha saputo che poi per causa sua hai conosciuto tua moglie. Alvise, un amico di quello che sarebbe diventato mio marito, per l'ennesima volta è arrivato tardi ad un appuntamento e Luca, mio marito, con cui aveva l'appuntamento, se n'è andato ed è venuto a trovarmi. Da allora scoppiò un grande amore. Avevamo 19 anni, ora ne abbiamo 50 e ci amiamo come allora. Grazie ad Alvise. 349-238-6666, persone che come la segretaria del circolo, della piscina di Nicolò, in qualche modo gli hanno cambiato la vita. Pronto Nicolò? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto bene. Dove ti trovi? Adesso sono a Genova, al CBA, al Centro di Biotecnologie Avanzate di Genova, sopra San Martino, all'ospedale. Perché tu sei ingegnere biomedico. Sì, ingegnere biomedico, esatto. Che significa? Ci occupiamo di tutte le apparecchiature elettromedicali degli ospedali e in questo caso anche dei laboratori di analisi e ricerca. Ma quindi, scusami, la tua figura lavora per un ospedale o per le società che forniscono dei macchinari? Lavoriamo noi per l'ospedale, ma sono ditte esterne, le famose global service. Però tu lavori sei assunto dall'ospedale? No, la ditta esterna che ha vinto l'appalto con l'ospedale. Quindi ma la ditta esterna fornisce solo il tecnico o anche gli strumenti? Scusa, mi sto impallinando con questa questione. No, perché è un casino, è vero. No, in questo caso la nostra ditta fornisce solamente i tecnici. Ok. Poi ci sono ditte che forniscono anche le apparecchiature. È un po' complicato il mondo dell'ospedale. Senti, allora torniamo alla piscina, che mi sembra più semplice. Quanti anni fa erano, Nicolò? Io avevo 15 anni, ne ho 29, 14 anni fa. Hai più, da quant'è che non giochi più a pallanuoto? Ormai sono 9 anni che ho smesso. Ci ripensi a questa? Cioè, ci pensi veramente sì. Che quella è stata un'occasione persa? Poi magari finiva in niente, no? Però, insomma... No, esattamente, però soprattutto è stata la mancanza di poterci provare. Beh, certo. È un'occasione persa decisamente. E sì. Quella segretaria l'hai più vista? Sì, ma la conosco, poi da noi il paese è piccolo, cioè la si vede, però non le si può dire niente, nel senso che ha sbagliato e amen. Senti, invece, volevo chiedere, ne approfitto perché sei stato un giocatore di pallanuoto, perché io ho questa convinzione legata agli sport. Personalmente non riesco a fare uno sport se non c'è di mezzo un gioco, giusto? Quindi ad esempio il nuoto mi annoia, la corsa un po' anche, e vi dicevo, la pallanuoto di fatto è un gioco applicato a un gesto tecnico che è quello del nuoto, puro e semplice. Però parlando con un ragazzo che la faceva mi diceva, guarda, in realtà il gioco applicato al gesto tecnico è comunque meno divertente rispetto a quanto è faticoso stare a galla. Non so se mi sono spiegato. Sì, si nuota perché è un po' come il calcio, nel calcio si corre. Sì, però capito, però correre o camminare, insomma, è che stai in piedi e combatti contro la forza di gravità. Più che nuotare è il fatto di stare a galla, lo stare a galla è sapersi muovere in acqua con alle volte due persone addosso, riuscirsi a divincolare e sapersi anche alzare dall'acqua per tirare, per parare. Qual è il ricordo più bello che hai di quel periodo in cui giocavi a pallanuoto? Non ne ho tantissimi. Più bello quando forse abbiamo vinto una partita, una semifinale, per poi arrivare alla finale a Roma, alle finali nazionali. Quanti anni avevi quindi quell'epoca? Lì avevo, era l'anno prima, avevo 14 anni. Senti, invece veniamo a oggi, perché ho sentito che dicevi che adesso hai scoperto il meraviglioso mondo del teatro. Sì, qualche mese fa, cioè in realtà mi sono convinto quest'anno a farlo. E che cos'è, un corso? Sì, è un corso di recitazione di quelli cioè non professionali, però... E su cosa state lavorando? Ma adesso, essendo l'inizio, è proprio creare le basi, imparare i movimenti del corpo, utilizzare la voce, conoscersi meglio proprio come vocalità, come... E Nicolò, invece senti, uno straccio di fidanzata? Quella magari, ma... Oh, hai fatto il corso di teatro per quello? Sai che c'è, no. C'è uno dei più grandi drammaturghi contemporanei dice che il teatro si è sempre fatto e sempre lo si farà per un unico motivo, che è conoscere le ragazze. Quindi immagino che in fondo ci sia qualcosa in quello, nel fare un corso di teatro a 29 anni. No? Non lo so, no, perché non funziona neanche così. No, in realtà è una cosa che mi piace, ma volevo farla già da anni e solo adesso sono riuscito a farla, quindi no. Nicolò, grazie mille per il tuo racconto, che era azzeccato e divertente. Buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Altrettanto. Che differenza c'è tra essere arrabbiati e provare rabbia? È una cosa a cui ho pensato quando ho letto il racconto di Marina, che è il racconto che sto per leggervi di nuovo. È un racconto che è andato in onda anche questo verso la fine dello scorso inverno. È un racconto che parla di una rabbia sopita e vissuta e quasi covata per tutta la vita. È una rabbia che arriva da lontano, arriva da quando qualcuno ti dice no, tu non puoi fare questo, devi fare quest'altro, e tu invece quello lo vorresti fare con tutte le tue forze. So che quando si parla di rabbia c'è sempre una forma di stupida retorica, per cui c'è una sorta di chiusura, no? In tutti i discorsi che hanno a che fare con la rabbia, che dice, che vuole che alla fine sia più giusto essere buoni, no? Sia più giusto non covare rabbia e non avere nessun tipo di rancore nei confronti di nessuno. È chiaro che questo, diciamo, nel migliore dei mondi possibili nessuno vorrebbe provare rabbia. Io però l'ho provata rabbia, non la stessa ovviamente che ha provato Marina, l'ho provata leggendolo però il suo racconto, perché credo che la cosa più brutta che possa accadere a ciascuno di noi sia quella che qualcuno ti obblighi a non fare quello per cui tu ti senti semplicemente più incline a voler fare nella tua vita. La storia di Marina parla di formazione, parla di lavoro e soprattutto parla di una grande rabbia. All'epoca della maturità, nel 1995, ero un adolescente piena di sogni e di rabbia. Il mio messaggio al mondo era chiaro. Tanto erano neri i vestiti che portavo e innumerevoli gli orecchini che avevo alle orecchie. Volevo tenere tutti lontani. Volevo che capissero che ero arrabbiata. Chissà con cosa ce la facevo. Forse ce l'avevo solo con la vita. La vita che 5 anni prima mi aveva portato via un fratello 24enne. Così tutte le domande senza risposta di una bambina che non capisce la morte e non capisce neanche la vita mi si erano incancrenite addosso. E io ero arrabbiata. Ma avevo tanti sogni. E il mio pane quotidiano era la passione per lo studio, per la lettura e per la scrittura. Volevo fare il liceo classico io, ma no Marina, non abbiamo soldi per farti studiare. Quindi muoviti a prendere un diploma e poi vai a lavorare. Mi toccò una scuola tecnica, per rito aziendale corrispondente in lingue estere. Che nome? Troppo lungo per voler dire qualcosa. A me però studiare piaceva. Il contro sicuramente che non era la mia scuola, non c'era nessuna materia che mi piacesse. I pro sono stati che comunque ho incontrato delle amiche che sono ancora parte della mia vita oggi, quindi sicuramente è stata un'esperienza buona alla fine, non per il mio futuro. E quindi studiai. Nei giorni prima della maturità studiavo anche 15 ore al giorno filate, tra panini con la Nutella e bicchieri di spuma. La maturità la feci cercando solo quei giorni di non vestirmi di nero. Ed esposi tutta la vita e le opere di Leopardi come se parlassi di un mio amico, di un fratello. Per me era come raccontare ad un estraneo le gesta di quello che per me era un eroe. Uscii con 60 sessantesimi, il massimo dei voti. Pensai che davanti a quel successo i miei genitori non avrebbero potuto negarmi l'università. Volevo fare lingue e letterature straniere. Invece no, lo fecero eccome. No, Marina, non abbiamo soldi, tua sorella si sposa e servono per lei. Tu vai a lavorare. Ecco, allora diventai ancora più arrabbiata. Io volevo insegnare e vivere le mie giornate leggendo, studiando. Ero frustrata, delusa e abbandonata. Avrei potuto cercarmi un lavoro e pagarmi gli studi, o almeno provarci. E invece no, scelsi di buttarmi via. Di scappare. Nessuno mi aveva mai insegnato a credere. Solo ad accontentarmi. Così, trovato un lavoro da segretaria che mi garantiva due soldi, andai a vivere da sola. Avevo 20 anni. Ora ne ho 35 e sono mamma single di un bambino di 10. Mio figlio si chiama Federico, ha quasi 11 anni, alla quinta elementare ed è completamente innamorato del basket, quindi da grande il suo sogno è giocare a basket e diventare un giocatore professionista. E speriamo che lui ce la faccia. Ripenso spesso a quel momento, il momento in cui scelsi di abbandonarmi da sola, di prendere un binario morto, di fare la scelta sbagliata, la scelta annoiata. Proprio come avevano fatto i miei genitori che tanto criticavo. Io feci la stessa cosa. Abbandonai me stessa. Gli anni sono passati nella mediocrità dei giorni trascorsi a fare un lavoro che non amo. Posso sembrare un'illusa, ma ci spero sempre. Ci spero che la vita sia anche fare quello che ti piace, assecondare le tue attitudini. E coltivo un altro sogno, perché in fondo la rabbia è diventata accettazione, ma la passione, quella è ancora viva. Quando Federico si iscriverà all'università, mi iscriverò anche io, o almeno ci proverò. Perché non è vero che tutto quello che butti non serve più. Un giorno, forse, può tornare buono. Io sono uno tranquillo, l'ho detto più di una volta. Cioè, non che viva come se tutto mi scorresse addosso, però diciamo che sono sempre stato uno che evita gli scontri. È una cosa che mi hanno insegnato i miei genitori, da piccolo, che con la violenza i problemi non si risolvono. E poi ho scoperto che c'è scritto pure nella Costituzione, più o meno quando si parla della guerra. E allora io ho sempre pensato che non essere violento volesse dire dover essere sempre d'accordo con tutti. Mai una tensione, mai un segno di dissenso, mai una litigata, sempre un bel sorriso sulla faccia. Che può pure essere una cosa bella, però alle volte era un po' un sorriso falso, perché dentro ogni tanto qualcosa non mi tornava. E ogni volta che mi veniva da storcere la bocca, mi dicevo che sbagliavo io e che dovevo vedere il lato positivo e che la rabbia era una cosa cattiva. Una specie di misto tra buddismo e fatalismo, una posizione da integralista del bene e del buono, che però, per arrivarci, i monaci tibetani ci mettono anni e anni a meditare, a mangiare riso in bianco, e allora sì che forse ce la fanno. Io però, che mangio le bistecche e vado allo stadio, che parlo con tutti, gioco a pallone, giro in moto, al mare vado d'estate, insomma, io che sono uno normale e non medito, la rabbia, un po' di rabbia, dentro, ce l'ho sempre avuta. È solo che mi ci sentivo in colpa ad averla. Poi un giorno ho guardato con attenzione la foto di quel tizio che si mette davanti al carro armato a Pechino, in piazza Tiananmen. E quella foto e quel video lì, che avevo già visto nell'89, non mi avevano fatto un grande effetto. A parte la stima per quell'omino lì, quel piccolo uomo con le mani occupate da due buste della spesa e il petto rivolto verso il cannone. E mi sono immaginato che razza di rabbia dovesse provare in quel momento quel tizio che stava mettendosi sotto i cingoli di un battaglione. Era un gesto di una tale potenza che non doveva essere mosso da un'energia gigantesca, doveva essere mosso da rabbia. Non era il sorriso del tutto va bene, non era il sorridi che il mondo ti sorriderà, che mi ero sentito dire un sacco di volte. E secondo me è un po' una boiata. Guardando quella foto non ho imparato niente, come al solito. Però secondo me un po' sono cresciuto. Perché mi sono dato una libertà, che era quella di provare rabbia senza sentirmi cattivo. Perché alla fine la rabbia è un sentimento umano, e far finta che non esista non fa bene. E da quel giorno non è che sia diventato una persona migliore, però sento meno peso sullo stomaco. Me ne sono accorto qualche mese dopo, quando ho chiesto a un amico se poteva darmi una mano per un trasloco che stavo facendo, no? Uno di quelli che ho fatto prima di mettere su casa, uno di quelli da qualche scatolone, due mobiletti, non tanta roba. E quindi chiedevo una mano a uno dei miei amici più cari, no? Di quelli che ci parli di cose di cui ti vergogni, di quelli con cui vai al cinema, che è sempre stato un po' il mio modo per capire se con qualcuno ci vado d'accordo oppure no. E lui, appena ho pronunciato la parola trasloco, subito è partito con un «Sì, però, bah, guarda, vediamo, perché non lo so». E ha trovato mille scuse. Ed era solo che non c'aveva voglia, ovviamente. E a me è sembrato ingiusto, perché bastava che lui mi chiedesse qualcosa, io più o meno ero sempre disponibile. E quindi lì, è stato lì che ho pensato che dovevo dirglielo, questa cosa che mi faceva arrabbiare. E allora l'ho mandata, diciamo che l'ho mandato a quel paese più o meno. Perché lui aveva il diritto di dirmi che il trasloco potevo farmelo da solo, ma io avevo il diritto di dirgli che lui si comportava da stronzo. Stavamo litigando e lui non sapeva cosa fare, perché ogni volta che c'è un conflitto nessuno sa cosa fare. E manco io. Però ho imparato che mi faceva stare un po' meglio. E alla fine col mio amico poi siamo andati ancora al cinema un sacco di volte, tranquilli e sereni. E questo perché se c'è qualcosa che dobbiamo dirci, sappiamo che possiamo reggere il confronto, tutte e due. E che se rabbia c'è, si vede. E se non si vede, vuol dire che non c'è.